Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e nelle scorse puntate vi ho portato dentro il mondo dei cristalli. Con oggi concludiamo questo breve ciclo sui cristalli, in seguito ci saranno nuove puntate con altri approfondimenti. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, come sempre, vorrei leggervi una citazione. Impara a dire addio a tutto ciò che è l'impedimento ai tuoi sogni. Impara ad attraversare il muro di cristallo. Sii se stessa, questo è il vero segreto della felicità, tratto dal libro Il Guardiano del Faro. Quindi, nelle scorse puntate avevamo parlato un po' in generale dei cristalli, come usarli sui vari chakra e i vari colori. E oggi vorrei entrare un pochino più su qualcosa di particolare. Per prima cosa vorrei parlarvi dell'elisir. L'elisir, è praticamente acqua con dentro un cristallo, o un quarzo di rocca, o un quarzo citrino, o un quarzo frumé, o un quarzo rosa, e in base ai vari problemi che poi vi spiegherò dopo, viene messo ai raggi del sole dalle 11 alle 13 o ai raggi della luna dalle 1 alle 3 di notte. Allora, che cosa serve? Il quarzo rosa serve per i problemi di addome, il fegato, la cistifella. Quarzo citrino per problemi di digestione. Il quarzo rosa anche per poter esprimere i sentimenti, per problemi di cuore, per creare pace e serenità interiore. Il quarzo di rocca invece serve per purificare. Il quarzo invece fumé serve per il radicamento, per le gambe, le vene, la circolazione, le emorroidi e l'ano. Come si fa a creare l'elisir? Si prende un cristallo, si mette dentro un bicchiere di vetro e con dentro dell'acqua potabile e si espone ai raggi del sole dalle 11 alle 13, così si energizza ancora di più il cristallo. Mentre dalle 23 alle 1 di notte si può esporre ai raggi della luna e questo è un potere calmante per il cristallo. Una volta tolto dall'esposizione ai raggi solari o lunari, o si beve subito oppure si può mettere in frigo. Il cristallo non va purificato una volta che ha fatto questo lavoro di energizzazione, anzi sarà più energizzato e avrà ancora più potere. Quindi quest'acqua, una volta energizzata oppure con effetto calmante, oltre a berla si può usarla anche per fare il bagno e ci si butta dentro anche il cristallo, dentro la vasca che avrà un potere ancora di più calmante. Per che cos'altro si può usare il cristallo? I cristalli si possono mettere nelle creme per il corpo, per il viso, per i solari, per lo shampoo, danno una maggiore carica a queste creme e fanno in modo che il loro potere arrivi ancora di più. Naturalmente sarebbe bene metterli dentro queste creme o dentro gli shampoo una volta che è energizzato perché hanno ancora più potere. Per esempio è importante un quarzo rosa dentro uno shampoo per chi ha dermatiti perché ha un potere calmante. E sarebbe meglio in quel caso il cristallo averlo messo sotto i raggi della luna perché avrà avuto un potere calmante. Naturalmente le pietre, oltre a mettersele addosso durante la cristalloterapia, possono essere usate anche per essere portate con sé durante il giorno su vari chakra, quindi non lo so, per cui uno ha un problema di cuore si potrebbe mettere un ciondolo che arrivi al cuore con un cristallo di rocca, oppure usare del banalissimo scotch e scocciarsi le pietre sui vari chakra. Naturalmente è meglio farlo d'inverno perché d'estate un pochino di più si nota e poi insomma lo scotch non è tanto piacevole d'estate. Prima di concludere quindi questo ciclo vorrei darvi un'altra piccola particolarità sui cristalli e spiegarvi magari alcuni cristalli importanti su che cosa lavorano. Vorrei raccontarvi di come poter lavorare sui sogni. Spesso ci svegliamo al mattino e non ci ricordiamo cosa abbiamo sognato. E invece sarebbe bello poterselo ricordare e poter fare anche un lavoro un po' sul subconscio. I cristalli ci vengono incontro. E che come? Dovete prendere un quarzo citrino, un'ossidiana fiocco di neve e un'ametista. L'ossidiana fiocco di neve va messa in basso e radica, quindi fa sì che noi ci ricordiamo tutto durante il sonno. L'ossidiana fiocco di neve è una pietra nera che ha dentro di sé dei puntini bianchi che ricordano i fiocchi di neve. Il quarzo citrino e l'ametista vanno messi sotto il cuscino, quindi l'ametista concilia il sonno, mentre il quarzo citrino ci aiuta a ricordare quelli che sono i nostri sogni. Torniamo ora ai problemi principali che uno può avere, che può incontrare nella vita di tutti i giorni, e quindi a quale cristallo bisogna chiedere aiuto. L'ambra è un calmante e di solito va messo nel terzo chakra, e per poterli mettere addosso, a volte li potete mettere in tasca, però sarebbe meglio avvolgerli in un sacchettino di stoffa se li volete portare in tasca e non nella carta. Per la tachicardia aiuta tanto il quarzo rosa, più il granato che lavorando sul primo chakra vi aiuta per l'emergenza, quindi per la paura della tachicardia. La corniola aiuta per problemi di reni e di ovaie. La pietra di luna aiuta per il ciclo, l'utero, i reni. Quindi è una pietra che accompagna le donne nel loro ciclo di vita, quindi il primo ciclo, la gravidanza, il parto, la menopausa. Per il mal di gola invece è importante una sodalite, un lapislazzuli o un quarzo blu, mal di testa, ametista, fluorite viola più quarzo di rocca, polso in alto all'altezza dell'ultimo chakra. Per la pressione, il granato e il diastro rosso per alzarla, il quarzo rosa sul cuore, mentre per la pressione alta è importante il quarzo di rosa sulla testa, l'ametista sul terzo occhio e il quarzo rosa sul cuore e il quarzo di rocca sugli inguini. L'ambra è un altro importante. Funzione che ha va anche per i dolori che vengono da traumi, quindi braccia rotti, caviglie slogate, menischi o tutto quello che ha dolori muscolari o articolari oppure rotture, aiuta tanto a calmare il dolore. Io direi che con questo è tutto, abbiamo concluso il nostro percorso breve e base sui cristalli. Seguiranno altri approfondimenti, ma prima di salutarvi, vi leggo un'altra definizione di un cristallo. Ambra, resina fossile antica di milioni di anni. Si dice che al suo interno sia racchiusa tutta la saggezza della terra. Altamente protettiva, rende spontanei aperti, pacifici e ottimisti, allontanando la depressione e l'apatia. Dona chiarezza mentale, equilibrio nella sfera emozionale e fiducia in se stessi, stimola la creatività. Particolarmente sensibile al calore, ha un effetto potenziato al suo stretto contatto con il corpo. Come sempre, prima di salutarvi, vi lascio i nostri contatti e il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono Elisa 339 3860 123, Francesca 340 23 45 340, Franco 329 89 89 669. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook, Energicamente. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e una buona estate se non ci risentiamo prima della fine dell'estate. E sopravvivete a questo caldo. A presto e grazie ancora per averci seguito.